Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo dell'intelligenza del denaro e ne parliamo con Alberto Mingardi. Buonasera Mingardi. Buonasera. Alberto Mingardi, direttore dell'Istituto Bruno Leoni, ha scritto questo libro, un libro ampio di 340 pagine, in cui si parla del mercato, perché il sottotitolo di questo libro, L'intelligenza del denaro, lo ricordo, è Perché il mercato ha ragione anche quando ha torto. E allora partiamo da questa affermazione paradossale. Cosa vuol dire, Mingardi? Il libro è scritto per portare il lettore a realizzare una cosa che viene molto spesso fraintesa, soprattutto nel mondo dell'informazione, soprattutto sui giornali. Siamo da alcuni anni in una crisi complicata, talora drammatica, si ragiona, si parla molto spesso come se il mercato o i mercati fossero degli enti, delle cose, come se avessero una direzione predeterminata, come se ci fosse qualcuno alla guida. Il libro invece vuole presentare una prospettiva diversa, che è quella tipica soprattutto degli autori cosiddetti della scuola austriaca dell'economia, che è quella per cui il mercato altro non è che il risultato di tutta una serie di interazioni che avvengono in ogni momento tra tutti gli esseri umani che vi partecipano. Quindi il mercato siamo noi, ed è per questa ragione che il mercato ha ragione anche quando ha torto, perché il mercato è uno strumento per produrre informazioni, per produrre conoscenza, ci aiuta a capire quali sono le cose di cui gli uni e gli altri hanno bisogno, necessità, desiderio. In quanto tale non ha un'opinione sua, non ha una direzione sua. Il mercato è un qualche cosa che va letto. Ecco, però questo è un po' quello che dovrebbe essere la società, quello che dovrebbe essere il mondo. In realtà poi c'è qualcuno alla guida, e questo qualcuno alla guida è chi detta un po' le regole, chi fa le leggi, chi in certo qual senso cerca di ingabbiare il mercato, perché il mercato lasciato a se stesso, si dice, questo mercato libero, non faccia qualche danno. Allora, gli argomenti qui sono di due qualità un po' diverse. Da una parte, proprio perché il mercato è un insieme di segnali, proprio perché il mercato siamo noi, per così dire, i suoi esiti possono essere sgraditi, possono essere considerati non socialmente commendevoli. Si può pensare che è necessario, per esempio, redistribuire risorse per darne ad alcuni pezzettini della società che altrimenti in una società puramente di mercato non sarebbero dei vincenti della gara economica. Ma c'è anche un altro pezzo del discorso, che il modo nel quale si procede a fare queste cose, a perseguire fini che invece dovrebbero essere socialmente commendevoli, molto spesso finisce per inquinare i segnali di mercato. Allora, da una parte c'è il fatto che il mercato non produce necessariamente gli esiti che qualcuno si aspetta, proprio perché quel che emerge è quel che emerge. Non c'è un piano, non c'è una direzione che possiamo, come dire, prevedere al millimetro sin da prima. Ma dall'altra, quando si interviene per orientare gli esiti del mercato, si finisce per mettere in essere una sorta di rumore di fondo che rende tanto più difficile a noi stessi, come attori di mercato, percepire quei segnali. Quindi sicuramente c'è qualcuno che si mette alla guida, spesse volte avendo le migliori intenzioni. Purtroppo, pur avendo le migliori intenzioni, spesse volte riesce a fare grandi errori e a causare esattamente quelle distorsioni che rendono la nostra vita più difficile anziché più facile. Ecco, uno dei punti forti del libro è proprio la dimostrazione di come la crisi degli ultimi 5 anni, una crisi che è stata addebitata alla mancanza di regole, viene descritta da Mingardi come una crisi provocata invece dalle regole sbagliate o dal fatto che sono dati al mercato dei segnali sbagliati. È così? Esattamente, c'è stato un inquinamento dei segnali di mercato. Ora, la crisi finanziaria americana, la crisi del 2007-2008, è un fenomeno molto complesso, nel quale conta una pluralità di fattori, davvero. Ci sono stati strepitosi errori da parte di attori di mercato e di grandi attori di mercato, ma c'è stato anche un problema di regole. Alcune di queste regole potevano in essere degli incentivi perversi, cioè, per esempio, è il caso più evidente, mancava la sanzione di mercato, è mancata la sanzione di mercato per tutta una serie di grandi intermediari finanziari che conseguentemente hanno preso rischi che forse, dovendo temere la sanzione di mercato, la sanzione del fallimento, non avrebbero preso, ma c'è stato anche un problema generale di, per così dire, gestione dell'infrastruttura giuridica. Quando noi parliamo del sistema finanziario, soprattutto del mondo del credito, sicuramente non parliamo di un settore libero dall'influenza della politica e men che meno di un settore scarsamente regolamentato. Questo, a dire il vero, non solo negli Stati Uniti ma anche in Italia. C'è un po' un effetto perverso della regolamentazione. Noi vediamo, attraversiamo tante crisi che sono frutto di regolamentazioni sbagliate e ogni volta si chiede, per uscire da quella crisi, più regolamentazione. È un modo un po' curioso di ragionare, è come se si potesse tornare ad essere sani ammalandosi di più. Ecco, il problema appunto è di quali regole, quali confini dare alle regole, regole che possano aiutare il mercato ad agire, ad essere più efficace e più efficiente, non regole che ingabbino il mercato. Ecco, uno dei pregi di questo libro è quello di non essere solo un libro teorico, un libro basato appunto sulle teorie economiche, anche se di teoria economica ce n'è molto, le citazioni di grandi economisti, soprattutto di Adamo Smith in poi, sono molto numerose e molto efficaci, ma c'è anche un confronto aperto con la realtà attuale ed è significativo che l'introduzione del libro parli di qualcosa con cui abbiamo a che fare in tutti i momenti, cioè con l'evoluzione rapidissima dettata proprio dalle forze di mercato dei telefoni cellulari. Quindi è un libro che fa i conti con la realtà, una realtà, Alberto Mingardi, in cui il mercato ha ancora comunque grandi spazi. Noi viviamo in un mondo che, come sempre, è contraddittorio. In alcuni casi questa contraddizione è piacevole, in altri casi meno. Negli anni scorsi abbiamo visto crescere grandemente, per esempio, il numero di scambi a livello internazionale. Abbiamo a disposizione tecnologie che hanno abbattuto i costi delle transazioni. Abbiamo visto intere aree del pianeta entrare finalmente nel mercato, cominciare a partecipare al circuito degli scambi. E anche, come dire, nel mondo occidentale abbiamo visto fenomeni che vanno ora in una direzione, ora nell'altra, ambiti della nostra vita che si liberalizzano, come si dice, nei quali c'è più competizione, è più facile per nuove imprese svilupparsi e crescere, è possibile finalmente per imprenditori nuovi provare a fornire un servizio in modo magari radicalmente diverso di quanto non avveniva in passato, invece ambiti della nostra vita nei quali l'intrusività dello Stato, la regolamentazione, il numero di norme è aumentato a dismisura. Questo è il grande terreno della discussione politica, anche in senso più alto, insomma, è il terreno di gioco tra Hayek e Keynes, se uno vuole parlare di economisti, ma ancora se torniamo indietro, è l'eterna lotta tra Hobbes e Locke, per così dire. Quindi è normale che la realtà poi non sia, come dire, completamente soddisfacente per chi ha una tesi piuttosto che un'altra. Quello che noi vediamo in linea di massima però è che laddove si apre la concorrenza, laddove crescono gli spazi di mercato, laddove si moltiplicano le opportunità di scambio, cresce la produzione di ricchezza e forse gli esseri umani imparano anche a fare meglio i conti con quella cosa affascinante ma non amata da tutti, che è la libertà. Ecco, il valore della libertà è forse un valore che non si può comprare ma che può essere apprezzato proprio se si capisce come si possa agire all'interno di una realtà. Io vorrei leggere proprio le ultime righe di questo libro, la conclusione, in cui si dice appunto: il libero mercato è l'economia della sorpresa, gli uomini di sistema al controllo non tollerano le sorprese, che possono essere belle o brutte ma sono sempre un sottoprodotto della libertà degli esseri umani. Questa libertà ogni tanto è scomoda, sto citando ancora la conclusione del libro di Alberto Mingardi, questa libertà ogni tanto è scomoda, ogni tanto delude le nostre personali ambizioni, ogni tanto ci costringe a ripensare i nostri piani, ma è l'unica cornice che davvero ci consente di imparare gli uni dagli altri. Quindi, concludendo, Mingardi, possiamo dire che dobbiamo essere in fondo ottimisti nel giudicare le persone, di vedere che nel giudizio delle persone, nella diversità delle persone, ci può essere spazio e ci può essere il motore di un progresso un po' per tutti. Assolutamente, non ci può essere una decisione giusta che sia presa da un solo centro decisionale. La vita è molto complicata, lo sappiamo tutti, lo impariamo, ci viene ricordato giorno dopo giorno. Il fatto di poter beneficiare tutti dei tentativi degli altri, dei loro errori e anche dei loro successi, è la grande caratteristica di una società fondata sul libero mercato. Uno può discutere finché vuole sulle decisioni meravigliose che lui potrebbe prendere se fosse il re del mondo o il pianificatore illuminato che regge le sorti dell'economia italiana. La nostra esperienza storica con i dittatori e con i pianificatori presunti illuminati non è stata esaltante. La cosa meno peggiore che abbiamo per vivere assieme decentemente e per continuare a fare quello che il mondo ha fatto dopo tutto dalla rivoluzione industriale ad oggi, cioè continuare su questa grande scala che ci porta a vivere sempre meglio, è fidarci gli uni degli altri e accettare una società che consente a tutti di provare a fare quello che desiderano e quindi anche di sbagliare e di imparare dagli sbagli degli altri. E di riuscire ad andare avanti nonostante gli sbagli, proprio imparando giustamente dagli sbagli. Grazie ad Alberto Bingardi, autore del libro L'intelligenza del denaro, perché il mercato ha ragione anche quando ha torto, edito da Marsilio, sono 336 pagine per 21 euro. Grazie anche a Peter Bascapè in regia, Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e buona serata.